altro programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Ed è passata un'altra settimana, quindi come sempre concentratevi sui fatti di questa settimana, sulle tantissime notizie che avrete letto, ascoltato, visto, commentato con amici, parenti, colleghi, eccetera. Questo è il momento, lo sapete, per rifletterci insieme, per ritornare su alcuni aspetti e poter liberamente esprimere la vostra opinione. Quindi il numero verde, lo ricordo subito e spero di ricordarmelo e di ricordarvelo più spesso durante la trasmissione, è 800 24 00 24. Quali fatti vi hanno colpiti? Su quali vorreste dire la vostra? 800 24 00 24. Intanto, rito immancabile come sempre, che cos'è che ci fa pensare che non ci sono più le mezze stagioni? Ogni settimana c'è una notizia che in qualche modo ce lo conferma. Bene, questa settimana devo parlarvi del fatto di fare dei test, degli esami quando si entra in un altro stato, no? Lo sapete, il passaporto, poi per l'Unione Europea ormai ci vuole la carta d'identità soltanto in alcuni paesi, un po' più difficile, Stati Uniti ed altri ovviamente, ci sono magari in altri paesi dei test d'ingresso, adesso per noi si sta parlando della lingua per gli stranieri, ma queste sono le modalità che sono state in vigore finora. Adesso si parla persino, attenzione, di test fallometrici. Avete capito bene, test fallometrici è il test praticamente che misura la reazione del pene davanti a immagini erotiche ai profughi che chiedono asilo allo scopo di determinarne l'omosessualità. Dove capita questo? A Praga. A Praga, ed è la denuncia del portavoce della Commissione dell'Unione Europea per le questioni di immigrazione, Michele Cercone, che ha detto: queste notizie giungono da Praga, già c'è stata una denuncia da parte dell'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali e continuano a fare questi test agli uomini, poi veramente come si va a capire davanti a immagini pornografiche, insomma, se uno è omosessuale, eterosessuale, la sessualità poi è così complessa, insomma, questa cosa molto mortificante avviene, mentre appunto finora c'erano altre cose per poter fare ingresso in uno stato. Ecco, questo ci dice che non ci sono più le mezze stagioni, insomma, veramente una straordinaria fantasia. E poi invece per contro c'è sempre qualcosa che invece ci dice che le mezze stagioni ci sono. Ebbene, continua la mattanza delle donne in Italia nel silenzio più assoluto, lo ha anche denunciato la presidente di Telefono Rosa questa settimana, l'ennesimo omicidio, più di uno anche questa settimana, della povera donna di 39 anni a Matera da parte dell'ex convivente. Ebbene, io vi consiglierei, se potete, di leggere il pezzo che ha fatto oggi il mio amico Michele Brambilla della Stampa, che è andato proprio giù a seguire questo fatto a Matera, lo racconta in prima pagina. Vi leggo giusto uno stralcio per darvi l'idea di quello che succede in Italia. Si è trattato, dice, di una morte annunciata, di un funerale annunciato che è avvenuto ieri, quello di Anna Rosa Fontana, 38 anni, è morta martedì sera colpita dal suo ex convivente Paolo Chieco, 53 anni, con 6 coltellate, ma aveva cominciato lei a morire il 13 luglio del 2005, quando lo stesso Chieco, nello stesso punto, l'ingresso di casa sua, aveva cercato di ammazzarla con 15 coltellate, non riuscendovi solo perché i soccorsi erano stati rapidi e l'ospedale era un passo. Tra le 15 coltellate di allora e le 6 di martedì che l'hanno uccisa definitivamente sono trascorsi, dice, 5 anni di benevola giustizia per il carnefice e di indicibile incubo per la vittima, 5 anni di molestie e minacce, vane denunce, perché l'uomo era stato condannato nel 2006 a 8 anni e un po' di mesi ed era ai arresti domiciliari. In fondo, se non c'era riuscito la prima volta, perché non ci doveva riuscire una seconda? Ecco, questa è in buona parte la giustizia italiana, almeno in questa materia. Bene, adesso che ci siamo detti queste cose, andiamo sulle altre notizie. 800 24 0024, se ci sono altri fatti, naturalmente, che volete commentare. Sono talmente tanti, si parla politica, no? Andiamo verso il 14 dicembre quando si voterà la fiducia o la sfiducia al governo Berlusconi e c'è questo scandalo, diciamo, della compravendita dei voti, è stata aperta anche un'inchiesta e poi la vicenda di Wikileaks, Assange che si è praticamente consegnato, anche se no lo facevano fuori, e la vicenda di Sakineh, finta liberazione, poi invece ancora in carcere, la premiazione, la cerimonia per il Nobel per la pace al dissidente cinese Liu Xiaobo, che però ha dovuto lasciare la sedia vuota perché era in carcere. Insomma, i fatti sono moltissimi, pensateci voi a ricordarmeli e a esprimere la vostra libera opinione, anche perché adesso vi devo presentare il mio opinionista estemporaneo di oggi. Signore e signori, Oliviero Bea. Buonasera, buonasera. Buonasera Liviero, tu dove sei nato Liviero che non mi ricordo? Dove sono nato? Sì. A Firenze. A Firenze, quindi già dalla Toscana in giù si dice buonasera alle 2 di pomeriggio e va bene, sì. Noi invece sì, del nord... Addirittura da mezzogiorno e mezza, è vero. Cose del genere si dica buonasera, quindi, però sono disponibile anche per dimostrare la mia duttilità anche a un buon pomeriggio o a un buongiorno. Sei molto flessibile e duttile, sì. Oliviero, anche perché invece chi sta al nord come me ha bisogno di prospettarsi la luce il giorno il più lungo possibile, quindi si comincia sì. A dire buonasera, che so, dalle 17, a volte dalle 18, anche più tardi. Come quindi, vuoi. Va bene, grazie. Oliviero, non c'è bisogno di presentazioni. Oliviero, spero che questa volta i telefoni, tutto quanto, sia perché Oliviero è sempre in viaggio e quindi adesso speriamo di tenerlo a lungo con viva voce, giornalista, scrittore, saggista, autore teatrale, conduttore televisivo, radiofonico. Ultimo libro da lui pubblicato con Chiare Lettere e dopo di lui Il Diluvio. E lui, mi sembra sempre di estrema attualità, Oliviero, no? La radiografia dell'Italia. La realtà continua a farmi sentire, come dire, di grandissima attualità, mi raggiunge, evidentemente io ero in fuga come un ciclista e da maggio, da quando è uscito il libro, e continua la realtà politica italiana e quindi quello che si porta dietro a farmi pensare che siamo sotto il diluvio, nel senso che la degenerazione della politica e la crisi di questo paese è sotto gli occhi di tutti, quindi mi pare, al di là di quella, ho sentito la storia del fallometrico, della misura, sì, beh, insomma non ci saranno più le mezze stagioni, ma ci sono i falli interi, pare. A volte sì, a volte no, ma comunque, caro Oliviero, dopo di lui il diluvio, lui naturalmente è Berlusconi, che non è detto, insomma tanti lo danno per finito, io non ci credo, tu? Ma il punto non è quello, io mi sforzo di scrivere dovunque posso, nei libri come negli articoli, come in queste occasioni radiofoniche o televisive, di dire che il problema è certamente lui, ma sul piano tattico, sul piano strategico, cioè con un po' di respiro per il futuro di questo paese o per l'immediato futuro di questo paese, o c'è una strategia, un contenuto politico che vada oltre questa classe dirigente complementare fra Berlusconi e i suoi avversari, oppure per questo paese il futuro non c'è, sia che rimanga Berlusconi sia che cada. È così difficile da capire, mi si dovrebbe dare torto, dimostrare che ho torto. Io sono molto interessato ovviamente a sapere che succede il 14, posso pensare che magari non si voti lo stesso perché si mettano d'accordo prima, posso pensare, l'ho scritto, sul fatto che si accordino con qualche furbata per cui si vota al Senato come in quelle partite sfalsate, visto che si parla di calcio mercato per i deputati, partite sfalsate, si vota prima al Senato il 14, prende la fiducia Berlusconi come pare, certo, e allora a quel punto si dimette, va da Napolitano e dice, ah, se non mi ridai l'incarico, qui un golpe, non sono mai stato sfiduciato e via dicendo. Quindi voglio dire, possono succedere tante cose. Rimane oggettivamente lo stato di crisi politica, sociale, economica e soprattutto culturale di un paese a pezzi. Senti, però, Oliviero, a proposito di crisi, ora io ti devo leggere l'avvertimento dei cardiologi italiani che si sono riuniti a Roma in questi giorni nel 71esimo congresso, i cardiologi della SIC, della Società Italiana di Cardiologia, hanno lanciato ieri sera questo avvertimento. Stai ben attento perché insomma, non so chi potrebbe riguardare, sì, però allora, non bastavano i conti da far quadrare per effetto della crisi, gli italiani devono anche prestare più attenzione alla salute perché stress, rabbia e timori per il futuro mettono a repentaglio il buon funzionamento del cuore e lanciano i cardiologi della SIC anche un appello alla stessa classe politica, dicono meglio abbassare i toni perché l'ansia del 14 dicembre potrebbe mandare in tilt il sistema cardiovascolare. A chi potrebbe succedere secondo te? C'è qualcuno un po' a rischio più di sistema cardiovascolare tra i politici che con una tensione? C'è tutta quella canea, quel gruppo parlamentare che è preoccupato del fatto di non raggiungere i 30 mesi che gli danno diritto al vitalizio. E quello è un bello stress, effettivamente. Quelli francamente c'hanno il cuore in subbuglio. In subbuglio. Poi c'è il fatto che effettivamente la cosa coinvolge un po' tutti. Secondo me quello meglio piazzato è Berlusconi, che ne ha viste tante, che quindi, essendo tecnicamente quasi immortale, come ha detto il suo medico personale qualche anno fa, tutto sommato pensa che il cuore, la corratella, il fegato, insomma, li controlla queste parti del corpo. Fa un check-up. Controlla anche un'altra parte del corpo di cui abbiamo già parlato per Praga, sì, ma non sì. vorrei no, entrare. No, senti, no, e a questo proposito, siccome l'hai citato, Oliviero, in qualche modo mi istighi, perché ho visto sul Corriere di questi giorni, adesso fammi andare a vedere la data, perché io poi mi ritaglio tutto, è proprio di ieri, Lamberto Dini, no, ex presidente del Consiglio, che cosa ha detto in un'intervista? Ha detto, sì, se il premier ha un'intensa vita sessuale, anche se ha 74 anni, ci credo perché anch'io ho 74 anni e anch'io ho un'intensa vita sessuale, pur, ha detto specificando, di non ricorrere a nessun aiutino. Quindi evidentemente questi settantenni d'assalto, la politica fa bene, diciamo, a certe performance. Io devo dire che Dini, con la sua somiglianza con George Clooney, è spiegabile che abbia questa grande vita sessuale, si spiega a colpo d'occhio, quindi Dini e George Clooney sono intercambiabili. Detto questo, non lo so, è un segno che c'è speranza per tutti, mettiamola sì, così. Effettivamente. E però, per tornare ai cardiologi e allo stress, perché comunque il discorso è straordinariamente serio e tu bravamente lo riesci a rendere digeribile, io credo che insomma uno non ci sia un problema di abbassare i toni, c'è anche quello, ma forse c'è un problema di dire qualcosa, cioè il tono è importante, ma è quello che dici forse lo è di più, e non dicono nulla, stanno semplicemente dividendosi gli spiccioli, appunto i dividendi, le briciole del potere. E quindi questo per gli italiani è preoccupante, no? Poi lo chiediamo agli italiani tra pochissimo all'800 24 00 24. Tra pochissimo c'è per esempio Ferdinando da, mi manca la città, vedo la telefonata, non vedo la città, poi lo chiederemo direttamente a lui. Però prima, a proposito di città, ci allontaniamo un pochino, diciamo, verso l'alto dell'universo. Riflessioni da Marte. Dunque, eccomi sempre da quassù, da Marte, a rimirare gli umani destini, come ogni settimana. Questa volta, va detto, la sorte è stata magnanima con l'italiche genti. Infatti, ciò che più si paventava, qual funesta evenienza nello stivale calciante, ovvero l'esiziale eventualità di uno sciopero dei calciatori, grazie al cielo non avverrà. L'agitazione sindacale degli sfruttati del pallone, terribilmente sfruttati, bisogna dire, mentre qualcuno si chiedeva se si sarebbe sopravvissuti a tale sciagura, è rientrata per fortuna. E mentre gli staccanovisti della sfera di cuoio addivengono quindi a più miti consigli, la passione calcistica dilaga anche in Parlamento, dove in vista del 14 dicembre ci si appassiona al calciomercato con deputati che cambiano squadra e colore della maglia, scaldando già i polpacci e sussurrando: come mi vuoi? Cosa mi dai? Dove mi porti tu? Insomma, per capire come andrà, persino il presidente Napolitano dice che ci vorrebbe la sfera di cristallo, proprio insomma un po' come nelle vicende di fate e maghi. Questi sono tempi oscuri, non lo si può negare. Insomma, non lo si può negare, fiabe imprevedibili del resto, come quella di Cenerentola, la quale nella versione di Rai 1, andata in onda qualche sera fa, vede improvvisamente comparire l'uomo nero. Ma no, grida un bambino che si stava godendo la fiaba di Cenerentola con tutta la famiglia. Non è l'uomo nero, è Bruno Vespa. E i genitori, spaventati, lo mandano immediatamente a letto e scrivono alle associazioni dei consumatori. Matteo Renzi, sindaco di Firenze, invece, ben più rassicurante, almeno nell'aspetto di Vespa, tranquillizza i suoi del PD, che si erano assai agitati per il suo pranzo in quel di Arcore, dicendo: cosa avevano paura, che facessi bunga bunga con Berlusconi? Fermo restando che dove c'è gusto non c'è perdenza tra maggiorenni consenzienti. Nulla è trapelato su eventuali performance. Certo, pazzo d'amore invece lo è veramente un autista dell'ATAC di Roma, che a un certo punto questa settimana, nel bel mezzo del percorso cittadino che stava facendo insieme ai passeggeri, no, quelli che aveva sopra il pullman, li ha fatti improvvisamente scendere dall'autobus che stava guidando, per poi proseguire la corsa e andare dalla propria donna, alla quale, ha dichiarato ai passeggeri, aveva promesso di andare a prenderla da solo col mezzo pubblico. Andava a 100 all'ora per trovare la bimba mia, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Andava a 100 all'ora per cantare la serenata, blem, blem, blem, blem, blem, blem, blem, blem. insomma, via, una diversione come un'altra, no? Un cambio di rotta, in sintonia evidentemente con la temperia politica, niente di che. In ogni caso, ci si lamenta tanto della lentezza dei processi in Italia e poi, pensate, negli States, la commissione dello Stato della Florida, che ha il potere di concedere la grazia ai condannati, ha graziato, dopo soli 40 anni, Jim Morrison, che in un concerto del 1969, ubriaco sul palco, si era calato i pantaloni, mostrando, diciamo così, i gioielli di famiglia, e fu condannato per atti osceni in luogo pubblico. Quindi adesso è stato graziato ed è probabile che ora, per avvertirlo della venuta grazia, gli mandino una raccomandata con ricevuta di ritorno al cimitero, naturalmente, ma meglio tardi che mai, no? Come si dice. Per chiudere, una scoperta sensazionale. Secondo lo studio di alcuni ricercatori dell'Università di Pittsburgh, è pubblicato dalla rivista Science, una rivista naturalmente serissima e prestigiosa, l'immaginazione ha un potere straordinario, persino quello di saziare senza aver mangiato una sola briciola. Basta, per esempio, pensate, immaginarsi di mangiare la propria torta preferita, boccone per boccone, per sentirsi quasi sazi, senza nemmeno averla vista in fotografia e con un bel risparmio, ovviamente, di calorie. Che possa servire sempre di più, magari, questo meccanismo di appagamento virtuale per l'esistenza prossima avventura? Eccoci coi piedi per terra, lasciamo Marte, invece prendiamo il numero 800240024, mentre vi ricordo che oggi mio opinionista estemporaneo è lo scrittore, saggista e giornalista, soprattutto Oliviero Bea, col suo ultimo libro, dopo di lui, Il Diluvio, e naturalmente lui, l'abbiamo detto, è Berlusconi, sempre protagonista in assoluto, o insomma, che lo si voglia vedere in positivo o in negativo, Ferdinando da Milano. Quindi dicevi della transumanza, diciamo un po' una metafora quasi pastorale nel senso di pecore vere, di gregge. Prego, esatto, Ferdinando. Esatto. Allora, il problema è questo: io quando vado a votare, oltre a votare la persona, voto le sue idee e per come lui pensa di risolvere il mio problema. Sì. Quando questo non ha più quelle idee, è giusto che se ne vada. C'è un secondo non eletto dopo di lui che prende il suo posto, tutto qua. A proposito dell'omicidio di Matera, sì, io fossi il procuratore della Repubblica, il primo ad arresterei il giudice il giudice che ha messo fuori quella persona lì, perché quello lì lo sapevano già prima che andava ad ammazzarla. È inutile che siamo lì. Il giudice di sorveglianza, arresterei il giudice di sorveglianza. Tutto qua. Così questa storia finisce. Ognuno si deve prendere la sua responsabilità. Certo. Su questo sono assolutamente d'accordo, Ferdinando. Non so se sia da arrestare o meno, ma sicuramente da perseguire, da capire come sono andate le cose, perché non è possibile che ogni due per tre, a parte quelli che sono liberi, che non hanno precedentemente avuto condanne, eccetera, ma magari comunque minacce che le donne denunciano in modo invano, insomma, ma anche quelli che addirittura aveva tentato con 15 coltellate, l'aveva mandata all'ospedale, e mi sembrava che, insomma, è qualche mese in carcere, se non gli anni che gli avevano dato, invece che gli arresti domiciliari, comodi a casa li poteva fare. Quindi c'è una responsabilità chiaramente di chi lo ha messo in libertà. Grazie, Ferdinando. Enrico da Treviso. Ciao, buongiorno. Buongiorno Enrico. È la prima volta che intervengo da voi, anche se ho tentato diverse volte, ma... Enrico, c'è proprio una concentrazione, c'è Luca Rinaldi ai telefoni che ha l'orecchio bollente, guarda, è proprio una cosa... Comunque, bene. Grazie allora, di aver chiamato. Prego. Volevo dire una cosa, il mio pensiero per quanto riguarda il discorso del compravendita di voti, sì, eccetera. Allora, io faccio questo ragionamento. Se noi abbiamo votato ed è andata una maggioranza al governo, no? Quello che è il cambiamento non è fatto dagli elettori, ma è fatto dalle cose di palazzo, che vogliono a tutti i costi che non far valere la democrazia. La democrazia si vota, va su una maggioranza, non c'è più questa maggioranza, si riva a votare. Il fatto della transumanza, allora, questo, come diceva il signore prima, non è una questione che adesso i voti vanno a Berlusconi, ma è l'altra questione, che l'opposizione o anche quelli che erano prima il governo fanno di tutto per far cadere un governo eletto democraticamente. Quindi non è una questione di transumanza o non transumanza, è una questione, teniamo in piedi questo governo voluto dagli elettori oppure va giù. Perché quando, pronto? Quindi andresti, Enrico, stavo pensando, quindi andresti a elezioni tu, per dire. Ma è logico, altrimenti sarebbe veramente una cosa non democratica, movimenti di palazzo per interessi personali di altre persone, non di Berlusconi, degli altri che fanno di tutto, anche indemocraticamente, per far cadere un governo eletto democraticamente. E fanno di tutti, addirittura dite sulla questione dell'età, no, dite, dicono, l'età è vecchio, se ne vada. Ma se vogliono aumentare l'età pensionabile, perché adesso diventa vecchio Berlusconi? Per loro è una questione un po' diversa. Enrico, ti ringrazio. Mi dai uno spunto da sottoporre a Oliviero Bea. Adesso io non sono riuscita, Oliviero, a leggere per completo, perché poi sono di corsa su tante cose. Il pezzo di oggi di Giovanni Sartori, l'editoriale sul Corriere della Sera, giovanilismo e rottamazione. Però mi pare di capire che, insomma, dica sì, è vero, insomma, nella politica ci sono molte cose da cambiare. Critica moltissimo l'attuale, il PD, insomma, la sinistra, il centro-sinistra. Però anche, diciamo, da qualche bordata ai, si chiama giovanilismo e rottamazione, per l'appunto il suo editoriale, a Renzi e agli altri, che dice: beh, in fondo Veltroni, D'Alema, Bersani non sono così vecchi, loro parlano tanto, avanti i giovani. Renzi e compagnia. Oliviero Bea, che è caduto? Dobbiamo riprenderlo. È una roba pazzesca quando c'è Oliviero al telefono, cioè bisogna fargli rottamare il telefonino. A proposito di rottamare, adesso lo richiamiamo. Comunque, vi dicevo, e poi lo ricorderò anche a lui, il problema, diceva Giovanni Sartori, in realtà, che questi giovani, dicono largo i giovani, Renzi e gli altri, in realtà è per se stessi, così scrive Giovanni Sartori. Mentre il nostro Massimo Gramellini sulla Stampa giudica Renzi, lo chiama il Boy Scout post-ideologico e spregiudicato. Oliviero, eccomi qua. Allora, parlavo di rottamazione, da rottamare il tuo telefonino, dicevo, perché non è possibile ogni volta. Sì, Oliviero. Questo lo farò, mi sento meno colpevole della situazione. Allora, ma finisco il concetto, scusami Oliviero. Aspetta. No, ecco. Oliviero, aspetta, sì, ribadisco quello che ti stavo dicendo, perché poi è andata giù la linea. Quindi da una parte Corriere della Sera, Giovanni Sartori, giovanilismo e rottamazione, oggi sul Corriere scrive praticamente, ne dice di tutti i colori contro il PD, il centrosinistra, che insomma è lì un po' morente, non si capisce che strada prendere, se c'è o non c'è, e però dà qualche colpo bordata anche a Renzi e agli altri giovani rottamatori, che dicono via i vecchi, anche se secondo Sartori alla fine Bersani, D'Alema, Veltroni non sono così vecchi, dice, questi qui sponsorizzano, dicendo avanti i giovani, Renzi e gli altri, soprattutto se stessi, quindi dice alla fine sono dei furbacchiotti anche loro. Mentre per esempio Massimo Gramellini nei giorni scorsi sulla stampa diceva sì, ha lodato Renzi, dicendo che vabbè, lui lo definisce un boy scout spregiudicato e post ideologico, che però dice lui appartiene all'attualità, gli altri al museo del Novecento. Con chi sei d'accordo tu? Allora, sono in disaccordo con entrambi per un motivo molto semplice, perché io sono d'accordo invece con Einstein, che insomma, per quanto io abbia molta stima di Sartori e pensi che Gramellini sia un ottimo giornalista, Einstein, diciamo così, ha lasciato qualche segno in più effettivamente nella storia dell'umanità. Einstein diceva, fra le tante cose, che non si può pensare di cambiare una situazione con la stessa mentalità che ha creato i problemi di questa situazione. Questo applicato al vecchio, a questa classe politica, significa che hanno tutti una enorme responsabilità nell'aver condotto questo paese nelle condizioni semidisperate in cui è. Con questo naturalmente coinvolgo i cardiologi a convegno sul fatto della mia salute, perché sono stressato. No, non ti stressare almeno tu, Oliviero. Ecco. Dai, cerca di la vedere un po'. La seconda cosa riguarda i rottamatori. Come si fa a rottamare qualcuno solo perché si è più giovani? Il problema è se Renzi è cretino o no, se è in gamba o no, se ha dei contenuti o no. Non il fatto che sia giovane, me ne frega assai che sia giovane, ce ne sono tanti di giovani, allora perché lui invece che un altro? Il problema vero è che i contenuti, quelli di prima, hanno contenuti che hanno portato il paese a questo sfascio. Quelli che verrebbero dopo e dicono rottamiamo i nostri predecessori non hanno contenuti, o perlomeno non li hanno tirati fuori, quindi stiamo parlando del nulla. Senti, del pranzo con Berlusconi, tu lo vedi così in negativo, così appunto una mossa furba di inciucetti, oppure in realtà, come dice lui, è normale? Dal punto di vista li vedo normali, anche perché incaricano di confermare una tesi modestamente che io sostengo da anni, e cioè della complementarietà del potere politico. Quindi per Renzi giustamente va bene tutto. Berlusconi 3 o 4 anni fa, forse lo ricorderai, disse a Renzi, presidente della provincia, che bella faccia che hai, perché non vi è, sei sprecato a sinistra, vieni con me. È la continuazione di quel discorso. Si piacevano già allora, un fascino reciproco, insomma. Senti, Oliviero. Ma non un fascino reciproco, facce e nient'altro. Ah, ho capito, sì. Proprio la faccia in senso fisico, estetico. Tra poco c'è Mario da Brescia, il numero verde 800 24 00 24. Ma prima, Oliviero, ti volevo anche sottoporre questa cosa a proposito della transumanza di cui parlavano gli ascoltatori, comunque di questa compravendita, aveva aperto un'inchiesta, eccetera eccetera. Leggevo questa intervista all'onorevole Antonio Razzi, ex Italia dei Valori, che è uno di questi che in questi giorni insomma si è spostato altrove, no? Si è spostato verso il PDL. Insomma, sono rimasta un po' così, un po' sorpresa di questa risposta che dà al giornalista. Il giornalista gli chiede: ma lei non era un anti-berlusconiano? E si vede una foto di lui in Parlamento con un foglio grande in mano con scritto leggina monouso in nome del re sovrano, quindi evidentemente per criticare quelle che vengono considerate delle leggi ad personam di Berlusconi, quindi molto diciamo attivo come critico di Berlusconi in Parlamento. Allora il giornalista gli chiede: ma non era un anti-berlusconiano lei? E lui risponde: io sinceramente sono uno che va d'accordo con tutti quanti, destra o sinistra, io sono così. Secondo te è un tipo socievole o un uomo per tutte le stagioni? Per tutte le stagioni, casomai ti devo correggere. Grazie, ti ringrazio della evocazione. Allora, no, il punto è il livello della politica contemporanea. Noi continuiamo a chiamare politica per convenzione, tu, io, chi ci ascolta, quella che invece è una banda che si contrappone sugli affari, qualche volta reciproci, qualche volta opposti, qualche volta evidenti, qualche volta nascosti. Politica non c'è più niente, e quindi noi continuiamo a pensare che sia politica quella che il 14 prossimo deciderà del nostro futuro, mentre invece sono affari contrapposti. In questa, se la consideriamo così, la transumanza va cambiata nella sensalità. Sono sensali, sono mezzali, mezzani, vendono vacche. Questo è il punto, perché fanno affari. Se uno entra in questa logica, tutto quello che sta succedendo non solo non sorprende, ma è quasi normale. Io mi meraviglio quando ancora trovo una persona per bene. Per me il titolo da giornale sarebbe a 9 colonne, politico onesto si giustifica dicendo purtroppo sono nato così. Sono un diverso, diciamo. Mario da Brescia, il numero verde 800 24 00 24. Ci sei, Mario? Pronto? Pronto, siamo qua. Prego, Mario. Buongiorno. Buongiorno. Lei ha sempre una voce bellissima, stupenda. Grazie, Mario. Io troppo buono. Volevo parlare dell'inchiesta che sta pubblicando in questi giorni Repubblica, che parte dai forti sospetti che il Dipartimento di Stato USA aveva per i rapporti tra Berlusconi e Putin. Tra l'altro, l'altro giorno mi sembra che fosse la giornata internazionale contro la corruzione, proprio in questa settimana c'è stata quella giornata. Allora, io vorrei semplicemente dire che quando si parla di corruzione o di sospetti di corruzione in ambito, in relazione al settore energetico, un'opinione pubblica avvertita dovrebbe alzare, soprattutto in Italia, alzare le antenne, perché è noto. Ci sono moltissimi studi che sono stati pubblicati da molti anni in Italia, magari il pubblico, chi segue solo i telegiornali, non lo sa, ma ci sono molti studi pubblicati da case editrici autorevolissime che dimostrano che sin dalle origini Mattei, Leni, Uomo e Azienda, che hanno avuto meriti enormi per l'Italia, ma hanno praticato l'uso delle tangenti. E poi vorrei anche ricordare che la madre di tutte le tangenti durante Tangentopoli era la tangente Enimont. Quindi, Mario, ma quindi quello che tu vuoi dire è in realtà queste cose ci sono sempre state, quindi fa bene Berlusconi a procedere come procede? No, un'opinione pubblica avvertita che non ne può più e che vuole un'Italia migliore, perché un'Italia migliore io penso che sia ancora possibile, deve stare attenta e giudicare gli uomini politici anche per queste cose qui, insomma. Ho capito, Mario, quindi dici consapevolezza delle cose che si sentono, si leggono, vengono denunciate, insomma. E cosa ne pensi, Oliviero Bea, che cadi e ritorni? Dunque, io penso che quel discorso discorso sulla consapevolezza dell'elettore sia decisivo. Penso che naturalmente sia molto importante il discorso sulla legge elettorale, che in qualche modo s'affaccia, se non esplicitamente, implicitamente, nei discorsi che facciamo, una legge elettorale diversa. Penso che però alla radice di tutto ci sia una mancanza di democrazia in questo paese, per cui il voto non è libero, non è consapevole, non è informato, e ci sono le carte truccate. Questo sia a destra che a sinistra, in una complessiva degenerazione della democrazia in questo paese. Vabbè, quando dici carte truccate, spieghiamolo cosa intendi, Olivier Bea, non nel senso che falsificano. C'è un articolo della Costituzione che prevede il voto libero, personale, sì. Via dicendo. Il voto non è libero, non è personale, diventa libero se uno è informato, se non è ricattato dalla realtà, se non continuiamo a essere sempre quelli di Lauro che dava la metà della banconota, oppure la scarpa destra, la scarpa sinistra. Questa è una metafora, ma anche una realtà spesso, come vedete adesso, per quel che riguarda i deputati e i senatori in discussione, deputati per lo più in discussione. Credo anche che il problema non sia se qualcuno viene comprato da Berlusconi, ma se qualcuno viene comprato e basta, da chiunque venga comprato. Quindi il discorso vale anche dall'altra parte. Quando succede, succede più raramente, per gli ovvi motivi che Berlusconi in questo momento è in difesa e che ha più soldini per comprarsi. Ma insomma, rimane la qualità della politica, la disattenzione di questo paese che da 20 anni dorme e va a votare convinto che il problema sia soltanto la maggioranza del voto nelle urne. Non è così, la politicità di un paese si manifesta in mille altre occasioni e le urne spesso sono truccate. Tu mi dirai, ma truccate nel senso dei brogli? No, qualche volta anche in quel senso, ma quello è il senso più classico, diciamo, di scuola. Sono truccate all'origine, concettualmente, perché non si va a votare in modo consapevole, dici. Niente, e non si è consapevoli in un paese in cui l'analfabetismo di ritorno, quindi anche la capacità di distinguere in politica a destra come a sinistra, sta facendo dei passi indietro alla velocità del suono. E non lo dico io, lo dicono tutte le società di ricerca che stanno facendo degli studi sull'analfabetismo di ritorno di un paese come l'Italia, che è culla della cultura del pianeta. Salvatore da Catania, sempre al numero verde 800 24 00 24, qual è il tuo argomento, Salvatore? Buongiorno, l'argomento mio, visto che si parla di transumanza, di rottamazione, di tradimento, anche se da qualche giorno non si parla più di tradimento. No, si parla, come no, sui giornali, si parla ultimamente di traditori, ne parlano un po' tutti. Beh, per me praticamente un parlamentare che cambia idea o comunque che abbia un'idea diversa dal leader del suo partito non è un traditore, è un individuo libero che avrebbe dovuto avere, diciamo, il mandato dal popolo sovrano di cui tutti si riempiono la bocca. Però spesso ci sono dei candidati che fungono da richiamo. Io non so quale attrezzo usano i cacciatori per attirare gli uccelli. Sì, ho capito, quella specie di, se qualcuno, spero non possibilmente un cacciatore, ma uno che se ne intende di queste cose, anche soltanto così, ecco, per conoscenza personale, è un richiamo. Sì. Che fanno da chiamo, prendono i voti, che si rinunciano al mandato perché possibilmente si sono presentati in 5, 6 o 10 circoscrizioni, e poi io, povero elettore, mi vedo eletto nella mia circoscrizione una persona illustre e sconosciuta. Beh, questo è il primo tradimento che io mi ritrovo. Vengo ingannato, non mi riferisco né a destra né a sinistra, anche se la mia mentalità è completamente diversa di quella di destra. Quindi una specie di specchietto per le allodole. Sentiamo se Oliviero Bea è d'accordo su questa cosa. Oliviero, già questo è il primo tradimento, quando mettono, no, il capolista o il personaggio di grande richiamo, ma poi dopo ti ritrovi un altro, là non c'è lui. Sì, naturalmente questo fa parte del discorso che avevo cominciato prima e che l'ascoltatore, in qualche modo riprende da questo punto di vista. Il discorso di fondo è che il vincolo di mandato su cui costituzionalmente si regge il rapporto fra rappresentanti e rappresentati ormai è diventato una barzelletta perché questi rappresentanti vengono scelti eletti in base alla nuova legge elettorale nel modo che sappiamo, cioè in tre persone o sette persone in una stanza chiusa, perché il voto, come dicevo prima, si svolge secondo meccanismi di mancanza di consapevolezza, di libertà, di trasparenza, di completezza di informazione. Questo vale per tutti, a destra come a sinistra, perché è difficile sentire fare questo discorso per tutti. Di solito qualcuno lo fa soltanto da un certo punto di vista contro un altro punto di vista, invece è globale, riguarda la democrazia complessiva di questo paese. Questo paese si salverà se si salverà con una buona destra e una buona sinistra, con una crescita generale della base e dei vertici. Se non succede questo, possiamo andare tutti a casa ed è questo il rischio. Tornando a noi, io e anche alle altre cose che ho sentito, è possibilissimo che non si vada a votare per un motivo semplice, che a votare ci vuole andare soltanto la Lega per questioni di diciamo così di riscossione elettorale, per gli stessi motivi ci vuole andare l'Italia dei Valori dall'altra parte, che presumibilmente, salvo adesso come dire effetti collaterali di questi ultimi giorni, teoricamente può pensare di prendere di più di quello che ha preso alle ultime elezioni. Tutti gli altri pensano invece che con preoccupazione che cosa succederà di me partito, di me premier, di me leader dell'opposizione all'interno della maggioranza, di me leader dell'opposizione all'interno dell'opposizione e via dicendo. Il punto è che nessuno di questi ha un'idea di che politica vuole per il futuro del paese. Cioè pensano soltanto in termini 14 dicembre oppure al massimo di aprile per delle elezioni. Ma che cosa succederà di questo paese? Possibile che non se lo ponga nessuno? Cioè, ritorno al discorso, strategia del paese, della politica del paese, dov'è? Chi la fa? Il rottamatore Renzi, la fa Bersani, la fa Berlusconi, vecchio o giovane, con pompette o senza, la fa Tremonti, chi la fa? La fa Draghi? Chi è che è in grado oggi di elaborare un minimo accettabile programma per il paese? E infatti, guarda, stavo guardando proprio adesso, Oliviero, un editoriale di Pierluigi Battista di questi giorni sul Corriere, che diceva appunto, come stai dicendo tu, che insomma ci dovrebbero essere alternative chiare, progetti contrapposti, no? Conflitti alla luce del sole, invece tutti questi appunto interessi propri coltivati poi nell'oscurità. Ma faceva il caso, ecco, adesso prima l'ascoltatore, mi pare fosse Salvatore, che diceva io vorrei sapere che quel candidato ha questa cosa in testa, ha un'idea chiara, no, non so se era Salvatore o Marco, che diceva che si può cambiare idea rispetto al proprio leader, al partito in cui si è fatto ingresso a un certo punto, no? Quindi si può decidere di andare, ma a parte il caso prima che facevo di Razzi, che dice io vado d'accordo con destra e sinistra, quindi un uomo per tutte le mezze stagioni, insomma. Però sempre Pierluigi Battista, in questo editoriale sul Corriere, diceva, criticava anche lui vari transfughi, diceva che appunto è una questione di decoro, di dignità, che ormai ha oltrepassato un limite. Faceva il caso dei tre, adesso io mi ricordo, lui non li cita per nome, ma insomma si capisce che sono Scilipoti, Calearo, se non sbaglio, e un altro, che hanno creato in tre un partito che si chiama Responsabili Nazionali. Ora non so se è più Irresponsabili o Responsabili Nazionali, ma comunque dice, lui li definisce un trio di disperati politici dell'ultima ora che convocano una conferenza stampa per formare un nuovo movimento e per dire che in tre voteranno il 14 dicembre in tre modi diversi, quindi formano in tre un unico movimento, un unico partito, ma già tutte e tre hanno posizioni diverse sulla... Insomma, c'è un po' di confusione, mi sembra, no? Lo stesso Boselli, per esempio. Ora, dire avere un'idea diversa dal proprio leader va benissimo, però ci ricordiamo Enrico Boselli, no? Esponente del Partito Socialista, poi è stato anche con i radicali, ha creato una specie di joint venture, come possiamo dire, quando era nello SD. Boselli era quello, insomma, che aveva una forte, marcata attenzione alla laicità dello Stato. Lui insisteva molto su questo aspetto. Adesso dove è andato con Francesco Rutelli nell'API? Che Francesco Rutelli ormai, diciamo, certe idee da radicale se le è lasciate alle spalle da tanti anni, no? E mi pare che il suo movimento API non sia poi così, diciamo, laico, mi sembra. Adesso Boselli, che era un testimone delle... come mai? Cioè, quindi non è questione di avere delle idee diverse dal proprio leader, di avere prima delle idee e poi delle altre, comunque, per carità. Ma io direi che il primo punto è avere delle idee, forse non le avevano prima, forse non le hanno adesso, forse non le hanno mai avute, forse hanno un'idea della politica come appartenenza a qualcosa del momento, che è essenzialmente l'interesse appunto politico, economico, personale del momento. E di fondo c'è questo, non c'è molto altro, è legittimissimo cambiare idea, ma intanto, per esempio, perché nessuno motiva mai urbi et orbi il proprio cambiamento? Cioè, uno cambia idea e dice per questo, questo e questo. Invece non succede mai, facci caso, non succede mai. Beh, Fini tempo fa aveva detto che insomma è cresciuto, le esperienze che ha fatto gli hanno, l'hanno portato a cambiare, sì, vabbè, un po' il punto generico, di vista. Troppo generico, dice, sì, un po' più circostanziato. Abbiamo inventato l'inversione sulla via di Damasco, un'inversione a U che naturalmente creerà degli incidenti automobilistici. Accidenti, sulla via di Damasco, come tutte le inversioni a U, a proposito delle notizie sul traffico. Vedi, io faccio un esempio estremo, tanto dei miei, tanto per rendere l'idea, così non rischio di essere frainteso. Io sono, come dire, totalmente distante da qualunque idea di destra fascista, mentre penso che ci sia un paese sia civile, se ha una forma di rappresentanza sia per i progressisti che per i conservatori, visto che poi su certe cose fra l'altro possono andare d'accordo, su altre cose dividersi aspramente, ma insomma sono lontanissimo dall'idea di estrema destra fascista. Ebbene, ti arrivo a dire che uno che oggi dichiaratamente dica sì, mi dispiace, io mi sono sbagliato, la democrazia non mi piace più, non mi interessa, ho capito che non andremo da nessuna parte, credo che non salverà il paese, sono voglio monarchico. Voglio tornare al dittatore fascista, possibilmente buono e intelligente. Cioè, sarebbe naturalmente una provocazione straordinaria, immaginati mediaticamente se uno dicesse una cosa del genere. Aspettiamo qualcuno che lo dica qua, ma magari sarebbe almeno sì, dirò che sarebbe più rispettabile. Ed eccoci qui come promesso con il nostro Stefano Andreoli, il papà di Spinoza.it, anche un libro che ha scritto Spinoza, un libro serissimo, come d'altronde lui, sapete, ogni volta insomma ci deprime addirittura in questo incontro, tanta la sua serietà. Caro Stefano, so che tra l'altro hai anche una collana, non so se è una collana di perle, che tipo di collana, insomma tutti i gusti sono gusti. Come... Una collana umoristica per Aliberti Editore che si chiama Sbalzi d'umore, e che ha visto uscire il primo libro, che si chiama Mission to Marx, un dizionario satirico sulla sinistra ad opera di Luca Bottura, prima uscita di Sbalzi d'umore. Molto bene, sei diventato anche un imprenditore, diciamo, in qualche modo. Dopo questa marchetta, però veniamo alla satira. Mi tocca. Veniamo subito alla satira, sentiamo Nobel, un po' che cosa Nobel insieme. Nobel per la pace, sì. Ha una sedia vuota. Come sappiamo, una sedia vuota per Liuxe Oboke, non può presentarsi alla premiazione. Nobel è una sedia vuota, un po' come la presidenza del Consiglio, diciamo. Ci sono delle analogie, ma non vogliamo gufare. No. Berlusconi dichiara: abbiamo portato in politica una moralità nuova, ha detto Berlusconi, ma è inutile che siate curiosi, si apre a Natale. Come è giusto, effettivamente. Ben chiusa e nuova. Sì. Ora, si avvicina la fiducia, io non voglio insinuare niente sulla compravendita di parlamentari. No, che già molto si è detto. Il fatto che sia pratica comune o no, ma pare che i senatori saranno nel prossimo paniere Istat. I senatori saranno inclusi. Quindi anche col valore... Anche l'Istat ha qualche sospetto. Beh, i parlamentari del Sud Tiroler, Volkspartei, hanno dichiarato che si asterranno dalla fiducia. C'è il parco dello Stelvio di mezzo, si diceva. Esatto, no? Poi loro non sono interessati alla politica estera. Non gli interessa più di tanto. Berlusconi regala 60 milioni di euro alla Chiesa, ha intenzione di prendere i voti. Probabilmente questa è una strategia, ma non sappiamo bene quale sia il motivo dietro questo gesto. Veniamo a notizie più frivole. Blitz in libreria, si parla di libri. Fatto a pezzi il libro di Bruno Vespa. Ho letto, sì. Fatto a pezzi il libro di Vespa, come recensione mi trova d'accordo. Diciamo che sono assolutamente concorde con questo gesto. Comunque questo non ha scalfito il successo. Diciamo simbolicamente, ecco, sei d'accordo. Però fatto a pezzi, insomma, un po' una ambivalente, quindi magari una recensione un po' naif, un po' dadaista, e mi trova comunque d'accordo. Questo non scalfisce il successo, il libro di Vespa è sempre più venduto. Era un critico particolarmente agguerrito, libro. Evidentemente, sì. Il libro, chiaramente, sì, certo. Belen Rodriguez sarebbe un flop come testimonial della Tim. Si dice sì, che vogliono liquidare. Sì, pare che l'azienda non sia soddisfatta perché non aumenta le vendite. Ora io voglio dire, ma tra un bel pezzo di figliola come Belen, Christian De Sica e degli spot scritti col e non diciamo cosa, siamo sicuri che la responsabilità sia di Belen? Cioè, voglio dire, io forse non hanno degli autori come te. Forse no, ma adesso non voglio insinuare niente. Chiudiamo con notizie curiose dalla Germania. Sì? Immagini di un parto visto dall'interno. Per la prima volta il film di un parto visto dall'interno. Ti rendi conto? Questi registi emergenti sono sempre più giovani. Direi che con questa possiamo chiudere. Va bene, via, possiamo censurarlo comunque, anche se mi aspettavo di peggio in questa chiusura. Grazie a Stefano Andreoli. Ciao. Oh, basta adesso proposito con la satira, passiamo invece tra pochissimo a un appuntamento, anche questo immancabile, con la linguista Valeria Della Valle. Ma volevo, tra l'altro, la butto lì poi dopo nella chiusura, che è tra pochissimo, e chiedo ancora un po' di pazienza a Marco da Firenze e Renato da Roma, speriamo di farcela, sarò breve, sottoporre a Oliviero Bea, ma poi mi darà in conclusione la sua opinione. A proposito, a me mi ha molto stupito, a proposito di opinioni, di idee, di cambi di idee, di cambi di direzione, questa osservazione che ha fatto Putin sul caso Assange, no? Sapete, no, WikiLeaks, tutto quello che ha rivelato, è stato arrestato, adesso bisognerà vedere se lo se verrà estradato negli Stati Uniti oppure no, dove è accusato di spionaggio. Mi è piaciuta molto la vignetta di LK su Repubblica di ieri. Allora, ci sono due persone che parlano tra loro, uno dice: Putin contrario all'arresto di Assange, e l'altro: meglio sparargli. Ecco, a me è sembrato un po' questo effettivamente il concetto di sottofondo di Putin, che non è proprio, diciamo, questo esempio di grande democrazia e trasparenza, ma comunque sì, siamo esattamente lì. Cara Valeria Della Valle, io ti vorrei proporre, visto tutta questa temperie politica, per appunto, come si dice, il termine traditore, ce lo analizzi? Come no, come sintesi no, fantastica. Molto velocemente. Allora, traditore, così come il verbo tradire, vengono dal latino. La cosa singolare è che il verbo tradere in latino significava consegnare. E allora come spieghiamo il passaggio di valore, di significato, di sfumatura? Con la tradizione cristiana, perché Giuda tradì Gesù e lo consegnò. Ecco allora che proprio nel latino dobbiamo cercare, no? C'è scritto Judas qui tradidit eum, quindi Giuda che lo consegnò, e lo consegnò tradendolo. Ma in questi giorni, oltre a traditore, termine non solo giorni, ma ormai da molto, no, che sentiamo parlare di traditori, e vedo che si è fatto molto largo anche la parola che per antonomasia, il nome che per antonomasia significa traditore, e cioè Giuda. Quindi ecco che attraverso l'attualità politica, in fondo, finiamo per ripassare anche un po' di storia del cristianesimo, e visto che siamo vicino a Natale, tutto sommato non va male. Grazie Valeria Della Valle, dai tuoi insegnamenti e alla morale, che è sempre quella. Stavo facendo una rima che, insomma, del passato, sarebbe una buona pubblicità. Adesso, prima di avere una conclusione in 32 secondi di Oliviero Bea, Marco da Firenze, sei l'unico che riesco ancora a tenere, chiedo perdono agli altri ascoltatori. Marco, dimmi con una sintesi estrema, quasi spregiudicata, in tre parole, qual era il tuo tema, no, e basta. Ho sentito varie opinioni sui rottamatori. Io sono fiorentino e seguo da 20 anni la crescita politica e culturale di Matteo Renzi, sì, che è un mio amico, sì, e devo dire, il significato di rottamazione non è per i vecchi da un punto di vista anagrafico, ma ovviamente per gli anziani della politica. Nel senso, cambiamo politica, questo. Marco, perdonami, certo, ti ringrazio, grazie ancora, salutami Renzi. E poi invece Oliviero Bea, in questi appunto 24-23 secondi che abbiamo, una tua conclusione, se vuoi, su Putin e Assange, se vuoi appunto sulla crisi che fa male al cuore, fammi anche la promessa che come programma chiaro, politico, che hai di rottamare il tuo cellulare una volta per sempre, qualsiasi marca sia. Prego Oliviero, in questi 22 allora, secondi. Sul cellulare nulla questo, rottamerò. Sul Putin è evidente che c'è un cortocircuito di informazione sotto gli occhi di tutti, che è spaventoso, manca solo che venga fuori da un dispaccio che Assange renderà pubblico, che il consiglio di parlare così di Assange a Putin gliel'ha dato Berlusconi, e poi il cerchio si chiuderebbe anche con Spinoza e con il discorso della satira. Così mi sembra di essere stato esaustivo. Esaustivo come sempre, grazie Oliviero Bea, meno grazie al tuo cellulare, ma mi hai promesso che lo cambierai. E da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti.